Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. L'elemento etico è fattore intrinseco delle leggi economiche. Sembrerebbe una presa di posizione recentissima da parte di qualche filosofo o da parte di qualche autorità morale sulla crisi economica di questi anni, che ricordiamo è stata scatenata proprio dalla mancanza totale di etica. Invece, queste parole, l'elemento etico è fattore intrinseco delle leggi economiche, queste parole così moderne e così attuali, sono state pronunciate proprio a Padova nel 1873 dal professor Giuseppe Toniolo, ben 139 anni fa. La settimana scorsa abbiamo raccontato la vita e l'importanza della figura di questo professore universitario e grandissimo sociologo cattolico, originario di Treviso, che proprio domenica verrà beatificato a Roma, nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Oggi vogliamo addentrarci in alcune delle sue intuizioni, che hanno influito moltissimo sulla visione e sull'azione dei cattolici in ambito sociale, economico e politico nel secolo a venire. Sarà con noi questa sera Maurizio Padovan, direttore del Centro di Ricerca e Formazione della Diocesi di Padova, che porta il nome del prossimo beato, Giuseppe Toniolo. La settimana scorsa abbiamo ascoltato un brano della Populorum Progressio che sembrava fatto a pennello per il prossimo beato. Oggi ascoltiamo un altro brano che riassume l'azione di Toniolo, questa volta scritto da Benedetto XVI per la sua Caritas in Veritate. Dalla Caritas in Veritate di Benedetto XVI. Paolo VI aveva visto con chiarezza che tra le cause del sottosviluppo c'è una mancanza di sapienza, di riflessione, di pensiero, in grado di operare una sintesi orientativa per la quale si richiede una visione chiara di tutti gli aspetti economici, sociali, culturali e spirituali. L'eccessiva settorialità del sapere, la chiusura delle scienze umane alla metafisica, le difficoltà del dialogo tra le scienze e la teologia sono di danno non solo allo sviluppo del sapere, ma anche allo sviluppo dei popoli, perché, quando ciò si verifica, viene ostacolata la visione dell'intero bene dell'uomo nelle varie dimensioni che lo caratterizzano. L'allargamento del nostro concetto di ragione e dell'uso di essa è indispensabile per riuscire a pesare adeguatamente tutti i termini della questione dello sviluppo e della soluzione dei problemi socio-economici. È in collegamento con noi Maurizio Padovan, grazie per essere qui. Grazie a voi, buongiorno. Benedetto XVI insiste sull'importanza della ragione e del pensiero anche nella soluzione dei problemi sociali e delle questioni economiche, e accanto a queste un approccio sapienziale che tenga insieme pensiero e spiritualità. Che ne pensa? Benedetto XVI è un difensore della prospettiva antropologica, cioè dice che non ci può essere azione politica, sociale, economica senza che vi sia una visione antropologica chiara, cioè senza che non vi sia un'idea di uomo, di donna, di bambino, di famiglia, di comunità chiara, poiché ogni nostra azione ha una ricaduta. E credo che questo approccio sapienziale, che tenga insieme pensiero e spiritualità, voglia dire proprio questo, è qualcosa che guarda l'integralità della persona umana e, diciamo così, al suo senso più profondo. La religione risponde alle domande più profonde dell'uomo. Quale fu il contributo fondamentale che Giuseppe Toniolo diede alla riflessione sull'economia in quell'epoca? Ecco, Giuseppe Toniolo interpretò perfettamente questo pensiero di cui abbiamo parlato, perché fu tra i primi economisti a riportare l'economia nell'ambito delle scienze sociali. Quanto costa il pane non è un fattore puramente numerico, non ha a che fare solamente con la pura contabilità o la ragioneria, ma ha a che fare con la fame, la sete, la quotidianità delle nostre famiglie. E quindi l'economia è assolutamente una scienza sociale che ha ripercussioni, riflessi, effetti sul nostro quotidiano, e quanto mai lo vediamo oggi. Quindi l'apporto fondamentale che Giuseppe Toniolo diede alla riflessione economica fu proprio questa: l'economia è una scienza che ha a che fare con tutto l'uomo, con un uomo che lavora, produce, ha affetti, con un uomo che si riposa, con un uomo che vive dentro la sua comunità e non può essere avulso da questo, insomma un uomo tutto intero. Quindi insomma non solo riflessioni adatte a quell'epoca, ma anche oggi? Giuseppe Toniolo è un precursore in questo senso, aveva inteso che le scienze economiche erano scienze che riguardassero anche i poveri, che riguardavano anche i poveri. Sembra quasi un paradosso: un povero non ha disponibilità, eppure è al centro della riflessione economica di Giuseppe Toniolo. Al tempo non si pensava che questo non avesse senso. Invece, chiaramente, se l'economia è intesa così come scienza sociale, allora ha a che fare con ogni essere umano, e ovviamente ha qualcosa da dire anche oggi, quando la povertà e i bisognosi sono in crescita. Quindi insomma non si è solo concentrato, come gli altri economisti, sui fattori macroeconomici, ma anche sui micro? Assolutamente, perché la visione cristiana di Giuseppe Toniolo gli imponeva di occuparsi del fratello, del prossimo. E così come ci dirà poi la dottrina sociale della Chiesa, di cui Giuseppe Toniolo è stato uno tra i più illustri testimoni e curatori, c'è un'opzione preferenziale per i bisognosi, per i poveri. Grazie infinite, ci fermiamo qualche istante e torniamo fra pochissimo. Grazie. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Bentornati alla 16ª puntata del Bene di Tutti Parliamone. Stiamo parlando del prossimo beato Giuseppe Toniolo assieme a Maurizio Padovan, direttore proprio del Centro Toniolo. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. In queste settimane si parla chiaramente tanto di lavoro in vista della riforma in fase di approvazione. Sul tema del lavoro, quale messaggio ci lascia Toniolo? Come aveva insomma descritto il lavoro a fine 800 e delle sue intuizioni, quali sono utili ancora oggi nel 2012? Naturalmente bisogna tener conto, come ha ben detto lei, che Giuseppe Toniolo è come tutti un figlio del suo tempo, un figlio di una fase di industrializzazione molto forte in Italia, che vedeva grandi discriminazioni, che vedeva la costituzione della classe operaia, della classe proletaria, della casta dei padroni, dei mezzi di produzione, l'avvento del socialismo, della cultura marxista negli ambiti di lavoro. Ecco, quindi Giuseppe Toniolo si inserisce perfettamente dentro questo tempo e cerca di dare un senso, una lettura cristiana a questo momento storico. Oggi probabilmente la lettura di Toniolo non ha tutto quel senso che aveva allora, proprio perché è una lettura storica. Giuseppe Toniolo parla di un'economia inserita nella storia e nella carne umana, e quindi probabilmente non avrebbe senso trasferire le indicazioni di Toniolo 100 anni o 130 anni più tardi. Detto questo, però, non si esime dal trattare un tema che sembrava essere monopolio della cultura marxista, che spaccava in classi la società. Ciò che chiede Toniolo invece è che la società non sia spaccata in classi, ma sia ricondotta ad una sorta di comunità dove i talenti di ciascuno vengano gratuitamente messi a disposizione della comunità, prevedendo anche un giusto salario, ma insomma non ipotizzando una così forte contrapposizione tra chi aveva tra chi riusciva a fornire la forza lavoro, i proletari, e chi era proprietario del capitale. Insomma, la famosa lotta di classe. Esatto. Quindi Toniolo si inserisce dentro questo tempo che è descritto così bene dalla lotta di classe, cercando di scongiurare la lotta di classe, cercando di evitare questa profonda spaccatura che probabilmente oggi noi capiamo non ha senso. Oggi quanto mai noi avvertiamo, e in questo senso Toniolo può essere un precursore dei tempi, noi avvertiamo che non c'è lavoro senza una solida alleanza tra chi investe, è imprenditivo e chi offre la sua forza lavoro. Ecco, credo che questo sia anche l'insegnamento di cui noi dobbiamo tenere conto alla luce dell'attuale riforma. Sì, chiaramente un'influenza importante, dato che sono più o meno le stesse parole con la quale Leone XIII esordisce nella Rerum Novarum. Insomma, questa condanna chiaramente non poteva essere così, questa condanna della dottrina della lotta di classe, proprio per una collaborazione tra le diverse classi sociali, un unico popolo in questo senso. Assolutamente, qui c'è anche la grande testimonianza del laico Giuseppe Toniolo e dell'amore per la sua Chiesa, perché partecipa con le sue riflessioni alla costituzione della lettera enciclica Rerum Novarum. Quindi è un laico in questo senso che non aspetta che la Chiesa dia segno, faccia passi avanti, ma che lavora perché la Chiesa faccia passi avanti e si mette a disposizione perché questo avvenga. Chiaramente essere un laico, non c'era ancora il Concilio Vaticano II, erano tempi molto diversi, quindi è stato innovatore anche in questo, non solo nel contenuto ma anche nelle modalità. Ecco, io credo che su questo Giuseppe Toniolo sia di un'attualità estrema, molto di più delle sue riflessioni. Spesso noi ricordiamo gli studiosi per quello che hanno scritto. Io direi che la forza di Toniolo oggi sta di più nella sua testimonianza, nell'aver accettato di scendere in prima persona nelle questioni del suo tempo e nel capire che doveva mettere a disposizione tutto quello che aveva ricevuto per i propri fratelli. Allora, da professore, sociologo, economista, cristiano impegnato, si è adoperato in tutti i luoghi e in tutti i tempi per costruire momenti di socialità dove le questioni venissero affrontate secondo un'ottica cristiana. Ecco, io credo che davvero questo sia l'insegnamento massimo, una testimonianza di un dono alla propria comunità. Abbiamo parlato di economia, abbiamo parlato di lavoro, parliamo anche di politica. Giuseppe Toniolo si è occupato del tema della democrazia, un tema quanto mai attuale oggi, insomma. Parlava addirittura della necessità di una democrazia cristiana, chiaramente non intuiva il partito che sarebbe stato fondato anni dopo la sua morte, ma un'idea di democrazia. Ci spiega questo concetto di democrazia cristiana per Toniolo? Toniolo aveva ben chiaro che ogni concetto di democrazia doveva anche tradursi in un ordinamento giuridico istituzionale, perché se questo non ci fosse stato, non ci sarebbe stato, come dire, il governo della città, il governo del paese. E le sue riflessioni nascono soprattutto dal concetto di bene comune. Ecco, lui l'ha utilizzato questo concetto molto nel tema della democrazia, tanto è vero che le settimane sociali del centenario, quelle del 2007 che si sono tenute a Pisa e Pistoia, che hanno ricordato le settimane sociali di 100 anni prima, fondate nella prima edizione proprio da Giuseppe Toniolo nel 1907, hanno ripreso e trattato il tema del bene comune, che era così caro a Giuseppe Toniolo, e cioè l'insieme di tutte quelle condizioni che permettono ad ogni essere umano di raggiungere più celermente la propria perfezione, la propria vocazione. Ecco, quindi Giuseppe Toniolo ha in mente un sistema democratico soltanto se finalizzato al bene comune, al bene di tutti. Il bene di tutti è un bene che, se volessimo utilizzare una metafora algebrica, non è una somma, ma è un prodotto, dove se un solo elemento della comunità vale zero, il prodotto è zero. Mentre nella somma, noi sappiamo che nella logica della media, se uno ha 100 e uno ha 0, la media è ancora 50. In questo caso, con la logica, la metafora del prodotto, basta un solo bisognoso, un solo povero in una comunità per invalidarne appunto la consistenza. Allora, Giuseppe Toniolo ha in mente una democrazia tesa al bene comune, un bene comune che è prodotto dalla vita buona di ciascuno, quindi anche dal professor Giuseppe Toniolo, che contribuisce in questo caso al bene comune, però deve essere garantita dal buon governo, ecco, da regole certe. Ma il cardine di una democrazia cristiana è un cardine che vede nel sistema democratico un solo strumento che ha ben chiaro un fine, il bene comune di tutti e di ciascuno. Giuseppe Toniolo è morto nel 18, proprio in quegli anni cominciavano ad affacciarsi i primi politici cattolici riconosciuti, diciamo così. Che influenza ha avuto in questi? Giuseppe Toniolo muore il 7 ottobre del 1918, nel gennaio del 1919 Don Luigi Sturzo proclama l'appello ai liberi e forti, agli uomini liberi e forti, e fonda il Partito Popolare Italiano. La grande tradizione sturziana, che poi sarà alla base della Democrazia Cristiana nel dopoguerra, trova anche le sue origini nell'impegno di Giuseppe Toniolo, indiscutibilmente. Potremmo quasi dire che c'è un filo rosso tra Giuseppe Toniolo, Sturzo e De Gasperi, ecco, e tre grandi entità, tre grandi figure molto diverse tra di loro, talvolta incomprese, che però hanno segnato certamente il passo del nostro movimento cattolico nel paese Italia, ed erano anche tre figure però che erano anche caratterizzate dal fatto che avevano un forte legame con l'estero, con le esperienze che sono maturate nei paesi limitrofi. Giuseppe Toniolo apprende dalla Francia e porta le settimane sociali in Italia. Le settimane sociali dei cattolici francesi si tenevano già da qualche anno. Don Luigi Sturzo avrà la sua grande esperienza negli Stati Uniti e in Inghilterra, dove potrà vedere come una certa sussidiarietà liberale ha a che fare con la dottrina sociale della Chiesa, e impara un paradigma nuovo. De Gasperi è un uomo di confine, che fa la sua prima esperienza politica nel Parlamento di Vienna e apprende molto anche dall'estero. Ecco, direi che sono tre uomini che hanno amato profondamente il loro paese, cercando di portare il meglio che hanno visto altrove. La ringrazio infinitamente, ricordo che lei a Padova è proprio il direttore di un centro Toniolo, quindi credo che sarà contento domenica quando verrà innalzato agli onori degli altari. Beh, certamente è una grande soddisfazione a cui ci uniamo con la preghiera. E poi c'è una curiosa coincidenza, e cioè nell'anno in cui viene beatificato Giuseppe Toniolo ricorrono anche i 20 anni di fondazione di questo piccolo centro di ricerca e formazione che nasce nel cuore della zona industriale padovana. Proprio per stare vicino al mondo del lavoro, e stare vicino in che senso? Cercando di trovare le nuove indicazioni, le nuove vie che questo tempo suggerisce al mondo del lavoro. Siamo dentro una delle zone industriali più grandi d'Italia, quindi che attraversano e risentono pesantemente gli effetti di una crisi globale, ma siamo anche nel cuore di una terra che ha sempre saputo innovare, trovare soluzioni e come dire, anticipare i tempi e i cambiamenti di un paese. Speriamo che le trovi, insomma, queste soluzioni. Assolutamente, auguriamoci di sì. Grazie infinite per essere stato con noi, Maurizio, anche questa volta. A lei, a voi, grazie a voi. Grazie. Prima di lasciarvi, ricordo che la cerimonia di beatificazione di Giuseppe Toniolo avrà luogo domenica mattina nella Basilica di San Paolo fuori le mura. All'occasione presenzieranno anche delegazioni delle nostre diocesi venete. Non ci troveremo martedì prossimo, in quanto è 1° maggio ed è festa per tutti, ma il martedì seguente, 8 maggio, sempre alle 18.25 sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potrete riascoltarci grazie al podcast sul nostro sito, o per contattarci mandateci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, l'appuntamento con noi è fra 2 martedì. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova.